Slalom. Flashback. È piaciuta? Adesso possiamo partire con la sigla che inizia così il nostro programma. In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Stamattina abbiamo fatto un po' di manicomio, ma era tanto perché non so se vi è capitato anche a voi di alzarvi la mattina ad avere una canzone che vi gira per la mente, come è cantato praticamente Mina con questa canzone Zoom Zoom Zoom Zoom. Ed effettivamente questa mattina io, quando ho messo i piedi per terra, che era veramente tanto presto, stamattina intorno alle 6, mi è cominciata a girare in testa questa canzone che faceva proprio la canzone che mi passa per la testa. E abbiamo iniziato con questa bella canzone. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Oggi giornata importantissima perché abbiamo intorno alle 11 la nostra cara amica Teresa Desio che sarà ospite di Slalom e quindi ci parlerà della sua nuova fatica. 0921 92 32 92 335 56 37 251. Poi avete a vostra completa disposizione anche il sito internet che è www.crmepiradio.it per interagire con noi, come dice Mary Catalano, dai fate i bravi. All'interno del sito c'è l'icona di Facebook, così dialoghiamo insieme. We'll be right back. Ieri pomeriggio a Palazzo Steri, a Palermo, è stato presentato il numero 329 della rivista Segno, fascicolo monografico dedicato a Michele Perriero, lo scrittore palermitano venuto a mancare l'11 settembre dell'anno scorso. Fra altre cose, all'interno di questa sala c'era anche il nostro caro amico Nino D'Alessandro, che ha partecipato comunque alla realizzazione della rivista. Credo che in questi giorni futuri sarà ospite di CRM, ma lui è un affezionato nostro ospite. Continuiamo ancora con la musica. Questa è una bella canzone che già avete richiesto. Auguri a tutti coloro che si chiamano Margherita. Oggi infatti la Chiesa Cattolica festeggia Santa Margherita. Milk Sugar e Miran Makeba. Sicuramente l'attenzione maggiore di oggi è dedicata a Teresa Di Sio, che sarà ospite radiofonicamente con all'intorno alle ore 11, ma non dobbiamo dimenticare i nostri classici appuntamenti, che sono quelli con Michele Sarica intorno alle 10, parleremo quindi di poesia, poi ci sarà il nostro bravo chef Alessandro Lefice, che ci intrattenerà, ma soprattutto ci delizierà intorno a mezzogiorno della sua ricetta del giorno. Vi ricordo sempre che dovete scrivere le ricette, perché se partirà questo concorso proprio dedicato alle ricette di Alessandro. Ancora musica, salutiamo Veronica. I only miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. This ain't no ordinary feeling. You are the only thing that of you leaving on these four walls and on the ceiling. Give you a kiss, but I am dreaming. These crazy thoughts are so deceiving. You are the drug I am feeling. Paradise that I'm still seeking. I'm still alive, hope there's a reason. Can't move my my lips, but my heart is screaming. I only miss you when I'm breathing. I only miss you when I'm breathing. Without your love, don't know how I survive. It's you that's keeping me alive. I only miss you when I'm breathing. Salutiamo Daniela Zaga che ci lascia, ma vorrei fare veramente un saluto a tutti i miei colleghi qui di CRM Happy Radio, tra Alessio Campanella, Renata Guerrini, Roberto D'Antoni, Rosy e Mary, che conducono questa trasmissione pomeridiana che è veramente deliziosa, Talk Talk, e la mia collega di fascia oraria mattutina che è Mary Catalan. Non dobbiamo comunque dimenticare i Rock Brothers, i nostri cari amici e fratelli Brancato, con Rock Revolution che sarà presente in questa radio a partire da venerdì alle ore 21. Consigli commerciali, poi rientreremo in studio ascoltando una canzone di Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per me, anche se c'è da troppo tempo ormai il silenzio tra di noi. Io ti penso ancora, sai, se casomai ti parlassero di me, spero che ricorderai quello che sono stato per te, anche se hai sofferto quanto me, spero che ti riuscirà di sorridere per me. Se mai anche se c'è da troppo tempo ormai il silenzio tra di noi, ti penso ancora, sai, se mai. Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso. Sorridere per me. Se Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Ritorne. E tu, piccolo papà, dimmi che cercherai. Dimmi se il sole ritornerà e mio amore in che pagina è. Così non ti perderei e sul tuo corpo vivrò. La Spagna è grande, ma incontrerai il gitano che sempre cantò. Es la niña de Santa Sera, es la niña del Salvador, es la niña de Santa Sera, es la niña del Salvador. Oli, ed oli, oila, se nel fiume vivrai. Il viaggiatore ti indicherò, tu mi chiedi che fai, io non so. Oh nana, io so solo che l'infinito verrà. La dolce figlia col fiume avrai e il gitano per sempre dirà. Es la niña de Santa Sera, es la niña del Salvador, es la niña de Santa Sera, es la niña del Salvador. Sei tú que te ascolteré a cuando parli di età. Giorni in più, la vecchiaia da sola verrà. Buongiorno, buongiorno a te, il gran treno è già qui, e alla stazione chi ci sarà? Il gitano che sempre dirà, è la meglio di Santa Sera. Es la niña del Salvador, es la niña de Santa Sera, es la niña del Salvador. Dice 04 minuti primi e in collegamento telefonico abbiamo il nostro caro amico Michele Sarica. Buongiorno Michele. Buongiorno Michele. Dove sei Michele? Io sono qua. Eccoci qua. Allora, come stai innanzitutto? Ma già siamo in linea? Sì, già siamo in diretta. No, mi è un pochettino sorpreso. Comunque, grazie, buona giornata, io sto benissimo. Ok, allora, ti avevo anticipato che oggi è una giornata piuttosto movimentata perché alle 11 avremo ospite telefonica la nostra cara amica Teresa Di Sio. Che Cribbio, che bel nome! Ci parlerà che della... bella cantante! È anche brava comunque. Bravissimo, guarda, ma ricordo molte sue canzoni, certo, ma di tanti anni fa, che ci è tenuto compagnia, almeno per la gente come me, insomma, che ama quel tipo di melodia. Insomma. Sì, ma tu considera che io ho un aneddoto sopra Teresa di Sio, perché nell'82 io ho fatto vacanza in Campania ed ero ospite di amici a Cava dei Tirreni, dove lei abitava, e quindi io ho avuto modo di incontrare sia lei, che già era comunque abbastanza popolare, quindi comunque noi che eravamo giovani non ci dava molta confidenza, ma soprattutto Giuliana De Sio, che lì a poco sarebbe diventata più famosa delle due sorelle De Sio, perché sì, prima è partita Teresa con Giuliana e Teresa, sì. E poi successivamente si è accodata però in una strada un po' più da attrice, Giuliana De Sio. Avremo quindi la presentazione di questa nuova fatica, fatta in occasione anche dei 150 anni, perché c'è un pezzo proprio che è dedicato all'inno nazionale, quindi praticamente proprio dedicato alla nostra cara bella patria. Ma guarda, sono felice, ascolterò con piacere, e complimenti per te per averla portata a CRM. Ma diciamo è la redazione che si muove, e quindi di conseguenza io ho il privilegio di averla come ospite. Sai, per me è una bella esperienza, una prima esperienza importante. Ma ti credo, sono felice per te, appunto, dicevo tempo fa, ti dicevo appunto che sono contento che tu sia pervenuto, sia arrivato, perché lo meriti, diciamo, ad avere anche questi rapporti, questi contatti, perché per chi fa radio, chi fa questo lavoro, è fondamentale, diciamo, salire di gradino, avere non soltanto Michele Sarica, ma avere anche, che so, Michele Sarica è già una persona importante. No, dico, faccio un nome per dire, non andare un po' fuori, diciamo, un po', certo. Ma localismo, io, ecco, però io tu consideri una cosa, io sono molto più territoriale, cioè nel senso, io sto cercando ieri proprio con Nino D'Alessandro, abbiamo parlato di questo, cioè nel senso di creare quello che sono gli artisti, di portare avanti i nostri artisti della nostra terra. Sempre siamo là, l'argomento che facevamo prima a proposito anche delle notizie, delle situazioni che partiamo dalla nostra terra, evitare di fare diciamo, concorrenza che non sarebbe neanche una concorrenza ai grossi network, questo è chiaro, quindi noi dobbiamo partire da qui e possibilmente mantenersi dentro certi confini, cioè per un fatto proprio così culturale, un fatto radicato nella nostra mentalità, cioè portare avanti ciò che magari gli altri non fanno, perché è chiaro che non verrà mai qua un network per portare avanti una voce come la mia, che insomma sembra un fatto locale, un fatto molto, molto provinciale. Quindi allora dobbiamo, le radio private come CRM devono chiaramente fare in modo che venga fuori quello che c'è di positivo in noi siciliani, conterranei, insomma, tutto qui. Beh, considera che fra altre cose noi all'interno di questa radio facciamo un programma che si chiama Rock Revolution, proprio con i fratelli Brancato, uno dei due fratelli è il nostro station manager. Sì, è il direttore artistico, insomma, della radio, adesso si chiama station manager. È passato un po' l'acqua lo scopo di quella trasmissione è quella di proporre soprattutto artisti emergenti isolani. E credo che lo fanno da 6 anni, è un programma azzeccatissimo, un programma che ha veramente un indice di ascolto abbastanza elevato, e magari ha un target di ascoltatori non di grande età, cioè come possiamo essere io e tu, però è sicuramente un programma tra i più gettonati all'interno del palinsesto radiofonico di CRM. Questo perché è ben strutturato, ma soprattutto perché si cerca di portare all'interno della radio degli artisti emergenti dell'isola della Sicilia. Come ad esempio i vari programmi di intrattenimento che ci sono all'interno di questa emittente, soprattutto la domenica mattina, si parla delle problematiche del territorio di Cefalù. L'altra volta io ho sentito un'intervista fatta al primario qui dell'ospedale San Raffaele e così via. Cioè, si cerca proprio di portare gli aspetti sia positivi che non positivi, magari non negativi, ma non proprio positivi al 100%, proprio per creare parte di una realtà nostra, perché noi siamo isolana, quindi è chiaro. Cioè, questo io penso che a nome di tutti gli artisti, che ci sono un sacco di ragazzi, guarda, che sanno veramente suonare, cantare, e che purtroppo, diciamo, non hanno quegli sfoghi naturali che dovrebbero avere per portare avanti il loro pensiero, la loro arte, diciamo. E questo è un grosso handicap che noi abbiamo, perché qui siamo lontani, dicevo, dalle grosse case editrici, dai grossi giri, diciamo, dove si pubblica, dove si registra, dove si vende. Ecco, questo è il però fatto. Dico, dobbiamo prendere un esempio importante, credo, che sono Fiorello, ad esempio, un esempio importantissimo, sì, per la nostra. Se c'è la stoffa, prima o dopo ce la fai, ecco, ce la fai andare avanti. Su questo non c'è dubbio, però, come diceva Morandi, uno su mille ce la fa. Sì, quello poi è un pezzo. Ecco, io mi auguro che siano i siciliani molto di più, perché ci sono molti talenti. Va bene. Più allora, di uno di mille. Che io ieri sera ti volevo raccontare questo aneddoto. Ieri sera sono stato, non so se tu hai avuto modo di sentirlo, io sono stato ieri sera al Palazzo Steri a Palermo, che tu già conosci perché avevi fatto la presentazione, perché c'è stata la presentazione di Segno, che è una rivista dedicata a Michele Perriera. Mi fa piacere questo. C'è stata proprio grande autore, Michele, certo, sì, grande sì, regista. Quindi c'è stata un po' la presentazione di questa rivista, proprio che un po' fa il riassunto di quello che è stata la carriera artistica di Michele Perriera. Detto questo, parliamo della tua poesia, che è sicuramente la cosa perdonami se continuo su questa strada, ma diciamo, una rivista nuova sta uscendo adesso? No, è la numero 329. Quanto? Però è 329, proprio dedicata a Michele Perriera. Fra altre cose, all'interno questo numero è dedicato a Michele Perriera? Sì, questo numero è dedicato a Michele Perriera. Fra altre cose, c'è un disegno fatto da Nino D'Alessandro, che attualmente è in mostra all'Albergo delle Povere in Corso della Fine a Palermo, e quindi potrebbe essere anche un'occasione per vedere un po' tutto, cioè fare un giro nelle varie librerie e trovare la rivista, e poi andare a fare visita al nostro buon Nino D'Alessandro per quanto riguarda la mostra proprio di quadri di Nino D'Alessandro. La mostra da che data? Ma ricordi? È partita l'altro giorno, credo che finirà la prossima settimana. Quindi siamo in tempo per andare a vedere. Sì, è molto carina, poi lui è una persona squisitissima, una persona disponibilissima e così via. È siciliano, chiaramente. Te l'ho detto io poc'anzi. Nicola D'Alessandro, abbiamo tanti talenti noi in Sicilia, tanti talenti, tanti ragazzi veramente che... Nicola D'Alessandro, fra le altre cose, è stato molto è presente spesso qui in radio, perché fa degli incontri con il nostro professore, quindi comunque partecipa molto all'attività della radio. Ho capito. Allora, parliamo di poesia, Michele? Ma tutto è poesia nella vita, anche questo che abbiamo parlato. La ma una cosa ti volevo chiedere, scusami se ti interrompo, di tanto in tanto mi vengono dei flash. Non farmi domande difficili. No, ma l'ispirazione da dove viene? Ecco, lo sapevo io. L'ispirazione da dove proviene? Questo è un grande mistero. Comunque è chiaro che l'ispirazione è dentro di noi, dentro il poeta, dentro l'uomo. Come diceva Dante, è qualcosa che è ditta dentro. Quindi già lui ci parlava di questo, già ce lo spiegava con queste due parole. Diciamo che il significato oggi si è un pochettino esteso, un po' forse si è chiarito di più che cos'è questa benedetta ispirazione. Cioè, non è soltanto che io guardando il mare mi ispiro, è chiaro che mi dà delle sensazioni, ma sono tutte quelle vicende che oggi ci prendono, ci sommergono, ci turbano, e ci portano gioia, non lo so, queste cose che vengono un po' macerate dal nostro animo, dalla nostra sensibilità. E quindi poi, senza volerlo, così magari ti prende così un attimo, un raptus di follia, così di follia creativa, perché poeta, insomma, sappiamo tutti un po', dal greco poeta, creatore, insomma, creazione, eccetera, come poesia. Ma il fatto è che poi tu ti ritrovi, il poeta si ritrova a non riconoscersi, nel senso che qualcosa che ha smosso un po' le acque limacciose o chiare della sua creatività, e poi lui si ritrova magari oggettivamente qualcosa che non aveva meditato. Quindi ecco perché noi diciamo ispirazione, cioè come se provenisse dall'esterno. Sì, l'emozione proviene dall'esterno. Pronto? Abbiamo perso Michele. Vabbè, dai. Allora, partiamo con la pubblicità e poi ci ricollegheremo nuovamente con Michele Sarti. Abbiamo recuperato il nostro Michele Sarrica, che era scomparso nelle vie del telefono, e adesso riparliamo a parlare con Michele. Allora, dove eri finito, Michele? Beh, guarda, io ti giuro che non sono un fantasma, che sono ancora in carne e ossa, grazie a Dio. Ma vedi, i misteri dell'etere, come dicevi tu, i misteri della poesia sono infiniti, e quindi eccoci. Comunque l'importante è esserci in questo momento. Non soltanto partecipare, ma partecipare così idealmente, ma esserci anche fisicamente. Cosa dicevamo a proposito della ispirazione? Dell'ispirazione. Ma credo che il concetto comunque sia un po' esaurito, è questo di qua. La ispirazione è qualcosa che noi maceriamo, noi come, ma io parlo non soltanto di poeti, parlo in generale dell'artista, musicista, ma compositore, pittore, scultore, e quindi parlo che c'è qualcosa che poi a un determinato momento perviene, diciamo, alla mano in caso del pittore, alla sua fantasia, al caso del poeta, alla sua penna, insomma, e così via, fino a quando, ecco, questo input, questo movimento, che penso un po' che percorso che fa comunque l'elaborazione di una immagine poetica dal cervello, dal cuore, parte per arrivare alla spalla, arrivare all'avambraccio, al braccio, al polso, alle dita, alla penna, alla punta della penna. Quindi se il poeta in questo caso non è pronto, veloce, e questo meccanismo, perché si tratta di un meccanismo, non è perfetto, oliato, ecco che allora si inceppa in qualcosa. Diceva di fatto una bella frase di Picasso, a proposito dell'ispirazione, adesso l'abbraccio, diceva semplicemente una cosa che può venire, dice, l'ispirazione può venire in ogni momento della giornata, dice lui. Però l'importante è che quando arriva non mi trovi impreparato, e questa è una cosa fondamentale, perché se tu non sei pronto lì con carta e penna, scalpello e martello, hai perso tutto. Non so se sì, sono sì, stato sì, chiaro. Sì, no, sei stato chiarissimo. Quindi l'ispirazione, diciamo, definiamo, è un input. Ma di tutto ciò che tu hai già macerato e di cui magari non hai piena consapevolezza, allora ecco che poi il poeta, nello sviscerare un po' quel tessuto, quel filo di lana così ingarbugliato e intrecciato, perviene alla poesia. E poi dice magari, ma sta cosa, ma di dove mi è pervenuta? Ma ecco, perché non ricorda più quei momenti salienti che l'hanno composta. Poi lui deve essere pronto ad operare poi le sue capacità tecniche, e oso dire questa parola che molti la vorrebbero depennare, ma è una questione anche di tecnica, di cultura e di confronti. Poi così si perviene alla poesia, non è soltanto quel famoso input o ciò che ditta dentro, ma è anche un'elaborazione dovuta alle capacità di ogni artista, al suo stile, al suo gusto, al suo modo di essere. Ho capito. Visto che parliamo adesso di ispirazione, di poesia, io vorrei terminare, così se tu me lo consenti, con quattro versi che parlano appunto della poesia, del risultato di questa ispirazione. Mm-hmm. Ok, quindi poi partiremo con una canzone e poi noi ci sentiremo venerdì. Grazie, io ti riascolterò e ti ascolterò, continuo ad ascoltarti perché ho piacere di sentire la desio. Allora, io volevo precisare una cosa, perché la redazione mi ha mandato un'email. Allora, l'albergo delle povere, che è in corso di Femmini, dove c'è proprio Arte Media in Sicilia, in vetrina, è stata inaugurata dal presidente della regione Sicilia Lombardo proprio per valorizzare i nostri artisti. All'interno c'è circa 150 artisti siciliani, e tra cui il nostro Nicola D'Alessandro. Questo era per precisare un pochettino il tutto. Ma hai fatto 15... bene, perché sai, molte persone, magari l'albergo delle povere, dove è Corso della Fime, sai, Corso della Fime sappiamo che è molto molto molto lungo, è proprio quindi... quasi all'altezza di Piazza Indipendenza. Esatto, perfetto, diciamo, dove una volta ci abitava un certo famosissimo Francesco sì, da quelle parti abitava, Puglisi. quindi me lo ricordo benissimo. Okay. Anche perché io abitavo anche da quelle parti. Da quelle parti abitavamo tutte e due. In tempi remoti. Parliamo allora delle, finiamo con sta poesia. Okay, quattro versi che parlano della poesia, che va a definire un po' che cos'è la poesia. Vediamo. Okay, se ci sono riuscito, batti un colpo. Un abbraccio comunque a tutti i tuoi amici ascoltatori. Grazie, e poi a risentirci a venerdì. Ok, ciao. La poesia. La poesia è inno alla gioia, anche quando sembra un canto disperato. È inno all'amore, anche quando parla al cuore di dolore. È inno alla vita, anche quando si intrattiene con la morte. Buona giornata a tutti e un abbraccio. Ciao. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Te, dimmi cosa dici di me, che vedo che hai sonno ma non ti lascio stare. Quando siamo in compagnia, dimmi cosa dici di me, che bevo per gioco e poi faccio confusione. Dimmi la tua prima impressione di questa intimità, con me come si sta? Quando non so dove sei, dimmi cosa dici di me, all'amica, al dottore, a lui, al tuo ex amore. Quella notte sola in hotel, dimmi cosa hai detto di me, quando pianto davanti a te, ti è sembrato strano. Metti che ci fosse un bambino, ti piacerebbe se assomigliasse in qualche cosa a me. Io non so ballare in nero, pregare ma per te mi faccio attraversare. Siamo due intelligenti, sani e un po' violenti, ceppi, grigi e fantasia. C'è da darsi in faccia l'amore, c'è da star soli un po', poi riabbracciare te. Sei la pulizia di questa sorridente vita mia. Mentre bevi il tuo caffè, dimmi cosa pensi di me, che mi inciampo per strada e poi voglio il deltaplano. Dietro quel sorriso tu cosa stai per dire di me? Che ho parole e parole ma resto sempre uguale. Tutti i giorni è un giorno speciale, è un compleanno che ti chiedo di passare insieme a me, che non so ballare in nero, pregare ma per te mi faccio attraversare. Siamo due, c'è da viaggiare, c'è da cucinare, c'è da spendere e sognare. Respirare e tenere

di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, da di do di do, chibum, chibum, da di do di do, chibum, chibum, da di do di. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano qualcosa, il compleanno. Oggi è il 16 novembre 2011. Ricordiamo comunque i nativi di questa giornata importanti come Michael Cimino, regista Il Siciliano e L'Anno del Dragone, Amanda Lear, James Bond, agente segreto nato dalla fantasia dello scrittore Fleming, e poi nel 1831, il 16 novembre di quell'anno, nasceva Eugenio Beltrami, che per alcuni può essere uno sconosciuto, ma chi ha fatto matematica sicuramente se lo ricorda. Continuiamo ancora. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Vi ricordo sempre che si vende un appartamento di 4 vani, 120 metri quadri a Palermo, zona proprio Corso Vittorio Emanuele, 4 Campi. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. The world just coming out so cold. Yeah. Allora, come vi stavo dicendo, si vende questo appartamento di 4 vani, 120 metri quadri in pienissimo centro storico a Palermo, proprio altezza a 4 canti, primo piano, un lungo balcone su Corso Vittorio Emanuele, in un palazzo d'epoca, totalmente da ristrutturare e rientrante nei piani di finanziamento regionale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia numero 14 del 1 aprile 2011. Chi fosse interessato può chiamare al 338 21 19 112. Salutiamo Alessia. Le persone che nel nostro paese hanno già spento le 100 candeline sono più di 16.000, quanto emerge dall'ultima rivelazione Istat. Buon auguri anche per loro. Soprattutto al nord, la maggior parte è costituita da donne, circa 13.040. Ma vediamo com'è distribuita questa popolazione ultra centenaria. E quindi, come dicevo, al nord in maniera particolare la presenza di donne che hanno già festeggiato i 100 anni è tanta, ma insieme uomini e donne fanno circa 4.190 nel nord ovest. Nelle isole siamo a 1.533, al centro 3.984 e al sud 3.087, quindi al nord si vive meglio, si sta meglio, auguri per loro. Non so se lo Stato sia particolarmente contento, ma non io gli auguro buona vita. Continuiamo ancora con la musica. Yeah. Michael J. Fox suona per beneficenza la mitica Joe B. Good, la stessa canzone che aveva cantato nel mitico film Ritorno al Futuro, sotto proprio nel, quando si esibì nel palco con, in occasione del nella parte che era Incanto sotto il mare. Dopo quindi 26 anni da quel film, il cult per tantissimi fan di quel periodo, l'altra sera in occasione proprio dell'annuale serata di beneficenza della Michael J. Fox Foundation, l'attore ha inforcato nuovamente la sua bella Gibson rossa luccicante per esibirsi in quella solo che lo ha reso celebre nel mondo del cinema. L'interprete che è il ragazzo che viaggiava nel tempo per mettere a posto le cose. Ma bene, J. Fox, continuiamo. Adesso consigli commerciali e poi rientreremo in studio, che siamo quasi alle 11, perché ci sarà, come già detto stamattina, come già anticipatoci nei giorni scorsi, la nostra cara Teresa Di Sio che parlerà della sua nuova fatica. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Come on. Mi sento come un bambino che deve affrontare il primo esame importante per la sua crescita scolastica. Io invece devo affrontare la prima bella intervista, importante intervista, con un personaggio che io apprezzo in maniera particolare. Teresa Di Sio. Ciao Teresa. Pronto? Pronto Teresa? Abbiamo persa. Pronto? Niente. Allora, come già detto, abbiamo in linea la nostra cara amica Teresa Di Sio. Ciao Teresa. Ciao, ciao, buongiorno. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Per carità, grazie a voi. Beh, grazie a te perché tu sei un personaggio molto importante, sei un personaggio che vivi di musica in giro per tutto il mondo. Dopo 4 anni quindi di attesa dal precedente lavoro arriva finalmente questa nuova fatica, sì. Sacco e Fuoco. Dico bene. Sacco e Fuoco è di 3 anni fa. Dopo Sacco e Fuoco arriva questo, il nuovo CD che si chiama Tutto Cambia, ecco. Certo. Ok. Dimmi come... dimmi tu, ecco. Sono un po' emozionato, non so se si sente, perché comunque per me questo è un po' come il primo giorno di scuola, fare un'intervista a un personaggio Guarda, importante. Guarda, è sempre come il primo giorno di scuola. Ogni giorno della nostra... Anzi, è bene che sia così. Perché se ogni giorno è il primo giorno di scuola vuol dire che ogni giorno faremo un'esperienza nuova e sarà un'emozione e soprattutto impariamo qualche cosa, no? Mo non sì, so se, certo. se io e te impariamo qualcosa parlando, però diciamo con l'idea che sia tutti i giorni un nuovo giorno di scuola, sicuramente per chi fa musica ogni disco nuovo è un nuovo... È un nuovo giorno di scuola, Capperi, poi ti interrogano, capito, come stai facendo tu adesso con me. Ma lo sai che io devo raccontarti un aneddoto, un piccolo aneddoto sì. che non vuole rubare spazio soprattutto alla presentazione di questa nuova fatica. Io nell'84 ero a Cava dei Tirreni e nello stesso palazzo dove abitavate voi, fra altre cose tu non c'eri perché già eri diventata famosa, avevi già prodotto il secondo album, insomma eri in giro. E noi abbiamo, io ho conosciuto Giuliana, che di lì a poco sarebbe diventata poi un'attrice. Però questo aneddoto di Teresa Di Sio mi è rimasto, figura che io ho a casa ancora il vinile tuo dove c'è Voglio Tornare, a Umum e così via. Eh beh certo, un disco storico ormai. È stato, fra l'altra cosa, quello è stato il disco che ha venduto circa 500.000 copie, se non vado errato. No, di più, parecchie di più. Diciamo 500, sai all'epoca... Nell'82, quando appunto è uscito questo mio primo disco, si vincevano il disco d'oro, il disco di platino, il disco d'argento e io mi ricordo che il mio primo disco d'oro lo ricevetti dopo le prime 500.000 copie di questo disco. Pensa che oggi credo che il disco d'oro lo diano a 20.000 copie, 10.000 copie, non so, una cosa del genere. Beh, ora forse non si parla più di tante copie perché tra internet e così via. No, non si parla proprio più di dischi, questa è la verità. Sì. Questo rapporto tra noi che acquistiamo e così via non c'è più realmente perché adesso tra tutto quello che viaggia internet è un po' diverso, ma comunque sì, però questo è un grande problema per la produttività perché sai che sempre nei secoli l'arte, qualsiasi tipo di arte, ha avuto bisogno di un committente, no? per svilupparsi e quindi di qualcuno che, come dire, ci metteva i soldi. Certo. E se oggi, perché produrre musica costa. Sì, noi siamo quasi abituati a pensare che la musica è un dono del cielo che arriva così nelle nostre case attraverso le strade del web, inviata da non si sa dove, no? E invece si sa da dove, dal lavoro e dall'impiego anche di energie, di energie economiche. E allora, sai, il fatto che il mercato discografico si sia così violentemente ristretto crea un sacco di problemi, soprattutto ai giovanissimi, no? Ai ragazzi che vogliono cominciare a fare questo mestiere, che scrivono, che cantano, che hanno qualcosa da dire e che si trovano disperatamente, se non allineati dai reality o dai, come si chiamano quei cosi lì, quelli dove, sì, dai, dove si scoprono praticamente i nuovi, dai talent, se non si vedono allineati in quella cosa lì, si trovano persi, perché l'industria discografica non investe più su nessuno che non passi attraverso quelle strade. Ma lo sai che questo è un problema. Sì, guarda, io ho visto un sabato pomeriggio una parte di Amici, ma così veramente due secondi, il tempo che stavo girando in cucina, e mi sono un po' rabbrividito la pelle mia, perché proprio le bastonate che prendevano questi ragazzi erano pazzesche, proprio perché proprio dovevano essere eliminati proprio per fare una cernita quasi fisiologica. Va bene, però come dice il disco tutto cambia. quindi dobbiamo andare avanti, parliamo del tuo disco, Teresa. Tutto cambia è un titolo chiaramente, no? Augurale. Anche perché nella vita di ognuno di noi c'è il desiderio che cambi qualche cosa, oppure molte cose. Nel paese nel quale abitiamo devono cambiare molte cose, perché la vita è diventata molto pesante, diciamo, per molti, per moltissimi. Mm-hmm. E quindi è senz'altro un titolo augurale. Però è anche un incitamento, perché se non ci rimbocchiamo le maniche, se non cominciamo a far cambiare noi le cose, poi le cose non cambiano da sole. Certo, dobbiamo anche noi fare la nostra bella parte. Sì, assolutamente sì, ognuno con quello che ha a disposizione. Io naturalmente cerco di farlo con la musica, con la scrittura, con le canzoni, con i libri, con quello che si ha a disposizione. Certo. E quindi tutto cambia, mi piaceva iniziare proprio il disco con questo pezzo, che in realtà è una mia traduzione di questa bellissima canzone portata al successo alcuni anni fa da Mercedes Sosa, sì, e che io ho tradotto in italiano. Mm-hmm. E anche un disco in cui mi sono buttata diciamo in una cosa che non mi è tanto familiare, cioè nel riprendere canzoni scritte da altri. Quindi direi che il disco è proprio diviso in due parti: da una parte ci sono tutte le nuove canzoni scritte da me, dall'altra ci sono dei rifacimenti di alcune canzoni, tra cui appunto Tutto cambia. C'è una versione molto particolare di una canzone di alcuni anni fa di Luca Carboni che si chiama Inno Nazionale. Inno Nazionale, sì. E una riscrittura in napoletano dal genovese classico di Croesa de Mali, Fabrizio De André. Mm-hmm. che nella mia versione si chiama Una strada mezzo mare. E due canzoni di Domenico Modugno, che è stato poi un altro dei miei maestri, ecco, io direi assolutamente indiscusso, che sono Lubrigante e Sciuscia Popolo. E quindi insomma, diciamo, è un disco abbastanza nuovo per me, in questo senso è cambiato qualcosa anche per me, perché mi avvicino anche ad altri autori di musica. Perfetto. Io volevo farti una domanda, però dobbiamo andare indietro, non perché io sono un nostalgico, perché tu hai mosso i primi passi con musica nova, quindi le esperienze di personaggi importanti della musica della tua terra. Ma sì, questo ti ha dato una struttura forte nell'affrontare la tua carriera, sì, da artista? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, probabilmente se io non avessi incontrato musica nuova, se non avessi attraverso quell'esperienza scoperto la musica popolare, probabilmente non avrei proprio nemmeno intrapreso la strada nella musica, perché non mi interessava fare altro. Mi interessava molto, no? Una musica che ci appartiene, che è delle nostre radici, nella quale potersi identificare completamente io come musicista, ma anche chi mi viene ad ascoltare. E penso che solamente quando si hanno delle radici molto forti nella musica si può poi fare come cerco io di fare da svariati anni, cioè di sperimentare su quelle radici e di innestare altri linguaggi, di scrivere in maniera autonoma, però sempre mantenendo i piedi dentro qualcosa, cioè qualcosa di solido. E le tradizioni nella cultura, nella musica, sono qualcosa di solido, a differenza di quello che ci viene insegnato oggi a ogni angolo di strada, cioè che le tradizioni non devono esistere, che c'è solamente un'attualità che quasi sempre è priva di tutto, perché no, la nostra attualità deve essere piena del nostro passato, perché sennò come facciamo a fare il salto nel futuro? Giustamente. Dobbiamo crescere dando sempre un'occhiata al nostro passato e alle esperienze avute in passato. Certo, io mi ricordo che quando ho cominciato c'erano gruppi come quello che stavate ascoltando, che insomma per me erano gruppi mie, era un gruppo mitico, no? Cioè è un'altra di quelle. Napoli Centrale, consideriamo. Napoli Centrale sono venuti fuori tutti, da Pino Daniele, sì, Enzo Evitabile, Senese, di tutto veramente. Ma poi io credo che la regione Campania sia la regione che per Antonio Masia dà il maggior numero di cantanti, ma soprattutto di poeti cantanti. Però anche perché a Napoli c'è questa, appunto, mi tocca riconvocare questo termine, c'è questa tradizione, sì, della grande poesia. Tu sai che la grande canzone napoletana, anche quella classica, è stata scritta da grandi poeti ed è uno dei pochi luoghi del mondo in cui la poesia alta, tra virgolette, si è mischiata ed è diventata patrimonio attraverso le canzoni del popolo. No? Ecco, è uno dei pochi dei pochi esempi, delle poche città nel mondo. Forse il Brasile, Rio, Bahia, forse hanno prodotto qualcosa di simile. Certo. Molto interessante, una cosa molto interessante. E quindi si spera che ancora adesso ci si riesca a mischiare tra basso ed alto e portare avanti quel discorso meraviglioso sulla vita e sulla creatività di cui parlava anche Pasolini, no? Nel mischiare il basso con l'alto. Certo. Allora, ti faccio l'ultima domanda e poi ci salutiamo, perché so che hai parecchie cose da fare, hai tanti altri impegni. Partirà una tournée? Partiranno? Sì. Ok, quando pensi? Diciamo, faremo una sorta di anteprima il 5 dicembre a Napoli, al Teatro Diana, e qualche altra cosa, e poi partirà, direi, ufficialmente dall'8 gennaio dall'Auditorium di Roma, il tour di Tutto Cambia, in cui suoneremo dal vivo sia queste canzoni che altre cose. È in programma qualche pubblicazione di un altro romanzo? Sì, è molto in programma, ma è molto ancora da scrivere, quindi c'è qualcosa che bolle in pentola. Sì. Va bene. Qualcosa. Bene, Teresa, avremo l'opportunità di vederti qua in Sicilia? Mi auguro tantissimo di sì, tantissimo. Ok, io mi auguro di incontrarti personalmente, sei nostra ospite quando sarai qui in Sicilia. Io ti auguro tante belle cose, buona vita e buona fortuna. Buona vita, buona musica sempre. Ciao Teresa, tante cose. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Vicino a te, cosciente strilla attorno, sto vicino a te, fino a che non dormo, sto vicino a te, perché un mondo è sporco, e non cercai sapere. Meglio che dorma, ma che parla ma fa, sempre le stesse cose, lasciando un sogà, e c'è un grande voto, e la c'è forte chi, e ci avanza tutto il giorno, ma capì. Non pigliare caduto, cosa va a te. Go pas aiuto, sta vicino a te. E scende strilla attorno, non mi fanno sentire. Ti stai scedato l'uomo, ma che parla ma fa. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Baby, it's so

Quanto è ipocrita comunque la gente, la D'Addario, che è stata la prima accusatrice e dispiaciuta per le dimissioni di Silvio Berlusconi. La parabola quindi della Patrizia D'Addario, la escort quindi protagonista dello scandalo intercettazione del 2009, è intervenuta praticamente a una trasmissione radiofonica, ha detto che si dispiace per le dimissioni. Consigli commerciali, poi ripartiremo con una disco datato, ma sempre su CR. Slalom. Flashback. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Tell me. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on get it. Get down on it, get down on it. Come on and get down on it, baby, baby. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-do. Oh, what you gonna do? Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on then. Get down on it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, when you move, move, move, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. As you move across the get down on it. Shout out, never, never, never.

sbaglia a modo suo. Perdono è una parola, anzi due. Il numero di bambini deceduti nel mondo prima di compiere i 5 anni è sceso drasticamente. Questa è una notizia indubbiamente positiva, e passando da 12 milioni all'anno del 1990 a 7,6 milioni nel 2010. Sono circa 12.000 al giorno, lo rivela l'ultimo rapporto globale sulla mortalità infantile nel mondo stilato dall'UNICEF, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Rispetto a 20 anni fa, sopravvivono ogni giorno 12.000 bambini in più. Stava la star al ristorante, sembrava un morto con in mano un bicchiere. Oh. Il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere. Dottorino, il dentista aspettava il sabato con la moglie e tre figli, era già pronto per il mare. Il tassista al posteggio aspettava qualcuno. La ragazza con le grandi tette che tutte le sere alle 7:15 aspettava l'autobus guardando in alto, e tutti quanti ad aspettare a cercare di fermare questa vita che passa accanto e con le mani ti saluta e va bye bye. Questa vita un po' umida di pianto, con i giorni messi male, vista dall'alto sembra un treno che mai. Neppure se coperta dalla neve o se sparisce sottoterra e non si vede, si ferma un attimo. Il regista, il ragazzo, il dentista, il taxista, la ragazza, la star, scaraventati in mezzo al traffico. Si provasse a trattenere cae. Adesso, mio Dio, dimmi cosa devo fare, se devo farla a pezzi questa mia vita, oppure sedermi e guardarla passare. È nuovo di Zecca, questo di Lucio Dalla, Mary Louise, fatto insieme a Marco Mengoni. Io adesso ci fermiamo un attimino, vi diamo dei consigli commerciali e poi c'è una buona ragione per rimanere incollati. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Anticipa! For my bed and a pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat, I got buttons for my coat and sails on my boat, so much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater, oh, and now it's getting on the road, so they're getting sweeter. I got legs on my tails and a head full of hair, holding a pan and some shoes in my feet, I got a shelf full of books and most of my teeth, two pairs of socks and a door with a lock, I got food in my belly and a license for my telly, and nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car, I got most of the means and scripts for the scenes, I'm out and about, so I'm in with a shout, I got a favorite chat, but better than that, food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down, I'm out of blowing that hard. Nothing's gonna bring me down, boys, the best of all, I've got my baby. I've got my baby, she's my divine, and she's all mine, and nothing's gonna bring me down. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak.

non conoscono la radio. Ecco. Anche perché non arrivando a Palermo, quindi magari... Peccato, perché ci sono attrezzeremo parecchio... per questo. Bene, benissimo. E allora, il piatto di oggi è una semplicissima margherita, quindi una pasta prettamente di produzione siciliana, con della ricotta ovina che verrà emulsionata con del timo, dell'olio extravergine, del sale, del pepe e una scorzetta d'arancia grattugiata, di facilissima preparazione. Praticamente andremo a mettere tutto dentro un cutter o un robottino da cucina. Metteremo all'incirca 400-500 grammi di ricotta fresca, mi raccomando però che sia di pecora, questo è molto importante per un'ottima risoluzione del piatto, e andremo a mettere una manciata di mazzetti di timo fresco. Il timo ormai è un'erba aromatica che si trova dappertutto, ricorda malapena l'origano, però è molto ma molto più profumata e fragrante. Chiaramente andremo a mettere anche un paio di foglioline di salvia per rinforzare quello che è il lato olfattivo di questo piatto, e poi prenderemo un'arancia da dove andremo a togliere solamente la parte esteriore, quindi la scorza, senza andare ad intaccare la parte bianca, che solitamente tende a portare un po' di amarognolo. L'andremo a grattugiare con una grattugia di queste, insomma, mammali. Andremo a mettere tutto all'interno del cutter, metteremo mezzo bicchiere d'olio extravergine d'oliva e una presa di sale e del pepe. Lo faremo girare per almeno 2-3 minuti. Non appena sarà pronto e quindi avremo realizzato questa emulsione, vedremo che la ricotta dallo stato grumoloso diventerà praticamente una sofficissima crema. A parte, andremo a cucinare la nostra margherita e andremo a mettere tutto in un tegame dove andremo ad unire sia la pasta che la ricotta, e andremo praticamente a cospargere di scaglie di caciocavallo stagionato, che non sia ovviamente troppo salato, perché comunque andrebbe a deteriorare il gusto del piatto stesso. Ho capito. Andremo a guarnire con delle foglie di salvia belle, che passeremo possibilmente prima all'interno di un contenitore con acqua e ghiaccio per ravvivarlo un momentino. Faremo una bella guarnizione, ancora una grattugiata di scorzetta d'arancia, e il piatto per oggi è pronto. Perfetto, io credo che i nostri radioascoltatori saranno abbastanza soddisfatti di questo consiglio anche odierno. Senti, ti volevo chiedere volevo farti una domanda. Dimmi tutto. Mi capita, perché a me piace cucinare, di ritrovarmi ad esempio a casa a cucinare. Solitamente lo faccio quando siamo in pochi, cioè 4-6 persone, perché poi ritengo che il settimo comincia ad avere delle difficoltà a gustare quello che io preparo, ma non perché magari mi confondo e così via. Ma io volevo capire, da uno chef che vive quotidianamente tutto il giorno all'impiedi, sotto grande pressione, affronta alcuni rischi del mestiere? Io solitamente dico che per non bruciarsi e non tagliarsi, da una cucina non bisognerebbe mai passare. Ho capito. Quindi per forza di cose, anche se paradossalmente sembra una professione, ecco, un'attività... Ma è un'arte comunque. Calma e tranquilla, sì, viene unificata a un lato ovviamente artistico. Questo chiaramente va a, come dire, a formare la persona nel corso degli anni, però devo dire che comunque in cucina di rischi se ne corrono parecchi. Sì, ecco, ma perché abbiamo... No, ma io chiedevo anche al discorso di una pressione dettata soprattutto dalla preparazione, cioè nel senso che voi avete degli orari concentrati, che esattamente. So, dalle 12.30 alle 14.30 si deve pranzare, io devo arrivare al ristorante e devo mangiare perché devo rientrare per la pausa pranzo, quindi questo è logico, chiaramente. Le ore che noi giustamente utilizziamo in precedenza sono quelle che ci permettono di fare quella che si chiama mise en place, ossia la preparazione. La preparazione, che non è che tu vai a portare da 0 a 100 un piatto pronto, lo devi solamente scaldare e servire, ma prepararti le basi che ti servono per una buona riuscita. Ti faccio un'ipotesi: se io dovessi proporti di realizzare un piatto di spaghetti con aglio e olio, giusto? Sì. Se io già ho l'aglio pelato, giusto, messo magari ad insaporire l'olio dentro un contenitore, e basta soltanto aprire questo contenitore, tagliuzzare a melo appena o schiacciare addirittura dentro il tegame l'aglio e subito soffriggerlo con l'aggiunta del prezzemolo, che comunque noi precedentemente abbiamo già tritato. O fare tutto di sana pianta, non pensi che i tempi sono praticamente due volte se non tre addirittura? Certo, certo. Ecco cosa serve fare una buona mise en place. Mise e questo place, chiaramente anche a casa, per chi comunque ci sta ascoltando, per organizzare degli eventi, dei pranzi magari un po' più importanti, cercate di organizzarvi quanto più possibile. E prima, se magari vi trovate in difficoltà, potete anche contattarmi attraverso Francesco. un po' di pubblicità occulta stiamo facendo. No, ma poi la meriti, perché comunque collabori con noi a dare dei giusti consigli alle nostre massaie che sono a casa e che non hanno magari tante idee nel preparare il pranzo di oggi. Benissimo, qui ho tutti i membri del mio staff che mi stanno in modo molto grazioso guardando, apprezzando e sorridendo soprattutto. Okay. Poi magari qualche volta a giramano farò dare anche una ricetta ad ognuno di loro, sono dei ragazzi molto, molto capaci e molto preparati che ci tengo a presentarli. Ok, perfetto, dai, può essere anche un'idea questa che possiamo fare. Va bene. Alessandro, ti auguro buona vita e buon lavoro. Altrettanto, salutami, un saluto a tutti gli ascoltatori. Salutami anche i tuoi colleghi comunque. Va bene, ciao. Un saluto dal nostro amico speaker Francesco di Radio CRM per tutto lo staff della antica focacceria San Francesco. Okay. Ti faccio dare un ciao amplificato, ok, okay. Francesco, al mio 3, 1, 2, 3. Ciao! Nutra notizie curiose, idee e tanta musica. Non tromba dai tempi di Maria Maria. Meglio prima andare al cinema era meglio prima. Scuola, moda, panorama espresso, moca, cola, coca. Succede anche alla diva quando arriva la nuova velina. Non è mai buona come quella prima, ma a fine stagione sembra più figa. Meglio adesso che la rete ha svincolato la pornografia. O meglio prima con Cicciolina, con il pitone e il cavallo. MP3, io mi facevo la cassettina. Meglio prima, ma quanto prima? Quando vivevamo nella cascina, quando facevamo la prima col fiocco azzurro, la preghierina, la cartolina che ti spediva a fare il soldato, che è una gran bella esperienza, tranne per il mio amico che si è sparato. Nella mia classe girava tutto e di più, contrabbando come a Cancun, ed il mio bullo se l'è spassata, senza denunce, senza YouTube. E intanto bombardava il Kosovo quando c'era l'analogico e giocavi con il Commodore e i ragazzini nelle pipette ci mettevano solo il Crystal Ball. La tua PlayStation, il mio Atari, la tua cala, la mia cartina, la mia Falcucci, la tua Gelmini, la mia Chernobyl, la tua Fukushima. Non è meglio prima né meglio di prima, io gioco ancora per l'adrenalina. Sei tu che morte ne sai casina, non la vuoi questa musica che ti incasina. Meglio prima si credeva ai TG, almeno prima si poteva, senza Assange e Wikileaks. Non si sapeva che succedeva, il chirichetto nell'abbazia, ne si trovava l'analogia tra non e la RAE e la pedofilia. Meglio prima senza i rappers, con i Beatles e i Rolling Stones. Meglio prima tutti in playback, le Spice Girls, le Lollipop. Io non lo so perché guardo avanti e me ne foto degli altri. Ero meglio con Tranchi, Funky o sei te che sei scemo a capirmi, ci impieghi anni. Yeah. Gli acquari sono in genere parallelepipedi di vetro pieni d'acqua e pesciolini, ma quelli messi in mostra a Tokyo in occasione della mostra Art Aquarium sono decisamente qualcosa di più particolari. Enormi dimensioni, forme mai viste, cascate, colori e luci rendono l'esibizione uno spettacolo animato da più di 1000 pesciolini rossi. Pensate un poco. Continuiamo ancora con la musica, adesso lo facciamo con una bella canzone dei Zero Assoluto che si intitola Se vuoi uccidimi. A me sembra un po' la canzone di Raff, da queste tonalità, però ce l'hanno richiesta, noi pronti a accontentarvi. Noi restiamo noi, lontani mai, con gli occhi in su, verso le nuvole. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Dentro un addio c'è più che piangere, meglio sperare o nascondersi tu. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Ci sono volte che non dormo ma vorrei poter sognare ancora, rubando al tempo un po' di tempo per rifarlo ora. Niente che io voglia che mi faccia paura, di più di te. Nel bene e nel male rimane l'amore, tu stringimi forte, tu stringimi ancora. Di più, di più. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Comunque non è male questa canzone degli Zero Assoluto, Se vuoi uccidimi. Io vi ricordo dell'appartamento che si vende a Palermo, è un quattro vani, 120 metri quadri in pienissimo centro storico, nella zona Quattro Canti in città, primo piano, con lungo balcone su Corso Vittorio Emanuele, in un palazzo d'epoca, totalmente da ristrutturare, rientrante nei piani di finanziamento regionale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 14 del 1 aprile 2011. Chi fosse interessato può chiamare al 338 21 19 112. Adesso consigli commerciali, sono le 12.30 e poi rientreremo in studio e avremo una canzone di qualche tempo fa che fa sempre piacere. Tra notizie curiose, idee e tanta musica. Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words.

Stiamo arrivando quasi al capolinea, lo stiamo facendo con la musica italiana, questa firmata da Mauro Germano, è un vecchio pezzo di Gianni Morandi. Continuiamo ancora, questi sono i Negromaro insieme ad Elisa con questa bella canzone richiestissima al nostro numero telefonico. Salutiamo Valeria che ci ha richiesto questa canzone dal titolo Basta Così. Vi ricordo i nostri numeri di telefono, ve li ricordo? No, no, ma li sapete. 335 56 37 251. Liberi, ci sembrerà di essere più liberi, se dalle nostre mani non cadranno più parole te, noi due. E sarà più semplice sorridere alla gente senza chiederle se sia per sempre o duri un solo istante, poi che ce ne importa a noi. Tanto basta così, così scendiamo qui, qui, che senza di noi c'è la libertà. Sì, ma basta così, così, fermiamoci qui. Farò pugni contro il muro per averti ancora qui. We'll be right back. non solo sono i popoli a lottare per la pace, ma anche gli scienziati, lo dimostra Science for Peace 2011, conferenza promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi a Milano il 18 e il 19 novembre all'Università Bocconi. I temi: accesso a cibo e acqua, prevenzione delle malattie e diritti. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Una foto per la vista. CBM Italia organizza insieme a Focus un concorso fotografico in cui chiede ai partecipanti di esprimere l'emozione della vista. È un'opportunità per avvicinarsi a chi soffre di forme di cecità che sarebbero curabili. Il concorso Apriamo gli occhi 2011, dal buio alla luce, rivolto a non professionisti, si svolge online dal 13 ottobre al 2 dicembre 2011. Bando e scheda di iscrizione su www.apriamogliocchi.org, quindi un appuntamento importante. Vi ricordo che questa è CRM, la vostra radio preferita, la vostra radio di Cefalù, ma che possiamo arrivare ovunque grazie a internet, al nostro sito internet che è www.crmepiradio.it. Vi ricordo i nostri numeri telefonici che sono 0921 92 32 92 oppure 335 56 37 251. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I E siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti coloro, ringrazio Simone Brancato dall'altra parte del vetro che mi ha dato una mano nella conduzione di questa trasmissione. Saluto Renata Guerrieri che verrà dopo di me, Roby D'Antoni, Rosi e Geri, Mario Glombardo e Pino Simplicio, Mary Catalano che domani la troverete nella stessa fascia orario, e poi Renata Guerrieri che successivamente a me. Io vi ringrazio, se il buon Dio lo vorrà, noi ci sentiamo venerdì mattina, stessa radio, stessa frequenza. Da Francesco Puglisi è tutto.